Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Destini incrociati oggi è al di là dell'oceano, negli Stati Uniti d'America. È la terra dell'abbondanza, la Land of the Free, dell'inno nazionale. Il paese in cui, partendo dal basso, si può arrivare a toccare le vette della celebrità, del successo, della realizzazione personale. In America tutto è possibile. Si nasce poveri, si diventa multimilionari. Si parte con un piccolo sogno e si arriva a realizzarne 100. Non è un processo immediato. In mezzo ci sono i tentativi, la gavetta, la fatica e qualche delusione. Ma la storia di oggi ci insegna che non bisogna mai mollare. Ci insegna che se si vuole sfondare, occorre essere caparbi. E soprattutto non bisogna cedere di fronte agli ostacoli. Le storie dei nostri protagonisti di oggi sono costellate di alti e bassi. Somigliano al percorso di un ottovolante. Una caratteristica frequente nello show business. Nel corso di oltre 30 anni di storia americana, le loro carriere sono fiorite per poi inabissarsi, riconvertirsi e sbocciare nuovamente. Di certo le vite di questi artisti sarebbero state molto diverse se un giorno i loro destini non si fossero incrociati. Ma è ancora presto per parlare del loro incontro. Oggi parliamo di musica, cinema e amore. Iniziamo a conoscere il primo protagonista di oggi. Siamo nella West Coast degli Stati Uniti, e più precisamente a Inglewood, California. Il clima, la rilassatezza della solata vita californiana sono perfetti per accogliere una famiglia di origini italiane. Ed è proprio in una di queste famiglie che cresce un giovane musicista, Sonny Bono. Sonny Bono. Registrato all'anagrafe come Salvatore, Sonny è figlio di un immigrato siciliano e di una donna americana che a sua volta proviene da una famiglia di immigrati di seconda generazione. Sonny trascorre parte della sua infanzia nell'inospitale grigia Detroit, nel Michigan, nel bel mezzo del cuore industriale dell'America. Ma i suoi sogni hanno bisogno di trovare spazio altrove. La famiglia Bono si trasferisce a Inglewood quando Sonny ha 16 anni e frequenta il liceo locale. Il giovane suona le percussioni in un complesso fondato insieme ai compagni di scuola. La band viene sospesa perché si azzarda a suonare musica rock al ballo di fine anno. Sonny è disposto a pagare il prezzo di questo incidente. Vuole a tutti i costi sfondare nel mondo della musica. Allora lascia il liceo e si trasferisce a Los Angeles, il posto giusto per sfondare nel mondo della musica. La canzone che sentite è Spanish Harlem, cantata da Benny King. Fu questo pezzo a far conoscere il cantante afroamericano che di lì a poco pubblicherà la celebre Stand By Me. Benny King viene lanciato da Phil Spector, produttore musicale sulla breccia nei primi anni 60. Nei celebri Gold Star Studios di Hollywood, Spector sperimenta tecniche sonore innovative, come quella del Wall of Sound, capace di creare il tappeto musicale denso e vibrante che caratterizzerà molti pezzi di quegli anni. Sonny è affascinato da questo mondo e vuole farne parte a tutti i costi. Bazziga nei Gold Star Studios e fa il galoppino di Spector in attesa della sua grande occasione. La strada per il successo è lunga e faticosa. Tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, la fabbrica di Phil Spector sforna talenti e hit da classifica. Ma per Sonny il successo sembra irraggiungibile. È il 1962, Sonny ha 27 anni e ha passato gli ultimi 10 a inseguire il suo sogno. Ormai ha quasi smesso di crederci, sta per mollare e lasciarsi tutto alle spalle. È a questo punto che il suo destino incrocia quello di una ragazzina, capace di sconvolgere la sua vita. Ero una giovane scatenata. E lui era già stato sposato una volta e aveva 28 anni ed era già introdotto nel mondo della musica e aveva provato a fare il cantante per così tanto tempo. E alla fine, proprio quando aveva deciso di lasciar perdere, ha incontrato me e improvvisamente è successo tutto. La voce che avete appena sentito è quella di una sedicenne dal carattere irruento e travolgente. Si chiama Sherilyn, ma noi la conosciamo come Cher. Baby, oh, baby, don't say you'll be my dog. La canzone che avete sentito è Be My Baby delle Ronettes, uno dei più grandi successi prodotti da Phil Spector. Il brano non è casuale. Tra le voci delle coriste che danno corpo alla melodia principale c'è proprio quella di Cher. Ma com'è arrivata questa giovanissima artista nella scuderia di Spector? Per capirlo, occorre fare un passo indietro. A 11 anni ho iniziato a esercitarmi facendo il mio autografo. È rimasto sempre lo stesso, fino ad oggi. Sherilyn Sarkisian nasce a El Centro, California, il 20 maggio del 1946. Già da bambina sogna di essere famosa. Vorrebbe seguire le orme della madre, aspirante attrice e modella. Cher però ha problemi di autostima. Ha ereditato dal padre, un immigrato di origine armena, i marcati tratti somatici che la distinguono dai coetanei. Cher vorrebbe emergere e invece si sente un'emarginata. Quando ero piccola non c'erano intorno a me persone che mi assomigliavano. C'era Sandra Dee e tutte quelle ragazze che assomigliavano a Barbie. È stata dura, non avevo nessuno con cui confrontarmi. La prima figura con cui mi sono confrontata è stata Audrey Hepburn. Era meravigliosa, ma al contempo non rientrava nel canone stereotipato della bionda la Marilyn Monroe. Cher guarda le dive di Hollywood e in America. Sognare un futuro di successo è lecito. Crescendo, impara a far tesoro della sua diversità e riesce a farne un punto di forza, un tratto distintivo. A 16 anni è una giovane emancipata. La scuola non le interessa, però. Seguendo i consigli della madre, prende lezioni di recitazione. Quelle lezioni le serviranno in futuro, ma adesso il destino per lei ha altri piani. Avevo 16 anni ed ero in un locale. Sonny entrò. La gente parlava di lui prima che entrasse. Giuro che questa cosa mi era capitata solo due volte nella mia vita e sempre con uomini italiani. L'ho guardato e ho pensato, questo è l'uomo più strano che abbia visto in vita mia. Aveva i capelli lunghi e portava gli stivali come i Beatles e io non li avevo mai sentiti nominare. E così iniziammo a vivere insieme. Lui mi disse che se volevo potevo cucinare e pulire. Io gli risposi che non sapevo cucinare. A lui andò bene così, evidentemente. Cher mente sia a Sonny che alla madre. A lui dice di essere maggiorenne. A lei dice di dividere l'appartamento con una coinquilina. I due diventano inseparabili. È totalmente affascinata dal suo essere più grande, più esperto, già inserito nel mondo dello spettacolo. Sonny porta Cher con sé ai Gold Star Studios. Ed è proprio qui che quel concentrato di energia al femminile scopre la sua vocazione per la musica. Stavo aspettando Phil Spector insieme a Sonny e una delle coriste chiamò per dire che aveva bucato una gomma. Philip disse, Sonny dice che sai cantare, coraggio. Io ero terrorizzata. Non credevo di farcela, ma lui mi disse di buttarmi e io non me lo sono fatto dire due volte. È così che Cher si ritrova inaspettatamente a fare la corista in brani come Be My Baby delle Ronettes o You've Lost That Loving Feeling dei Righteous Brothers. Sonny è incredulo e confuso. Quello che in 10 anni di gavetta non gli era riuscito, improvvisamente accade alla sua compagna. Una ragazzina molto più giovane di lui, ma capace di attrarre le occasioni e di afferrarle al volo. Per il musicista di origini italiane non ci sono dubbi. È lei il treno che lui sta aspettando da anni e non deve lasciarselo sfuggire. Never close your eyes anymore when I kiss your lips. Cher fa la corista per circa un anno. Ha un talento naturale, sia Spector che Sonny ne sono ormai consapevoli. Sonny si accorge che il lavoro come corista è sprecato per Cher. Lei può fare di più, lei merita di più, ma ha ancora dei guai con l'autostima. A dispetto della sua bellezza esotica e del suo talento, la giovane Cher è ancora una ragazza insicura, timorosa. Sai una cosa? Sonny voleva lanciarmi come cantante solista e io avevo troppa paura di salire sul palco. A lui non interessava. Lui avrebbe prodotto le canzoni, le avrebbe scritte e io le avrei cantate, punto. La prima volta che andai in studio però dissi che non ce la facevo, che non potevo farcela da sola, salire sul palco da sola. Di fatto la prima volta che ci esibimmo lui mi spinse letteralmente sul palco perché io davvero non ci riuscivo. Non riuscivo nemmeno a mettere il piede su quel pavimento. Sonny capisce che quella ragazza prima o poi decollerà nel mondo dello spettacolo. Ed è a questo punto che ha un'idea. Devono formare un duo, unire le loro peculiarità, i loro variegati talenti e trarre forza da questa unione. Sonny e Cher, inseparabili nella vita, sono pronti per spiccare il volo insieme. Quando ci siamo messi insieme, ci siamo fatti forza l'un l'altra. Lei è stata la mia ispirazione e la cosa funzionava. Era perfetta. Siamo entrati nel mondo dello spettacolo ed eccoci qui, toccando ferro. Sonny e Cher fondano il duo Caesar and Cleo. Lui ha un taglio di capelli a scodella, vagamente neoclassico. Lei la chioma nera e folta, da regina d'Egitto, che la contraddistinguerà negli anni a venire. Sonny e Cher, benché sotto mentite spoglie, sono un duo a tutti gli effetti. Prima sono stati amici e coinquilini, poi sono diventati una coppia sul lavoro e nella vita. L'amore, si sa, è una strana faccenda. Sonny e Cher a metà degli anni 60 ottengono un notevole successo discografico sia in America che oltreoceano, in Inghilterra. Il Regno Unito è la patria della band che a quell'epoca fa letteralmente impazzire le platee del mondo intero, i Beatles. Il duo americano ha un'aria esotica, decisamente sopra le righe rispetto alla classe e allo stile dei colleghi inglesi. Sonny e Cher amano vestirsi in modo bizzarro, con gilet di pelo e stivaloni, tute colorate, copricapo fantasiosi. È in questi anni che Cher sviluppa la sua passione per il look anticonformista e per la totale libertà di espressione estetica. Per Cher non conta ciò che si indossa, conta ciò che si è. Io so che cos'è appropriato, ma il concetto di appropriato a me sembra venga frainteso nella nostra società. Penso che se tu guardi gran parte delle persone che sono lì a fare i pilastri della nostra società e guardi come si vestono, beh, di certo si vestono in maniera molto appropriata. Ma io avrei qualcosa da ridire sulla loro interiorità, mentre non ho nulla da ridire sulla mia. La mia esteriorità non conta. Aiutata dall'esperienza del compagno, Cher è diventata una celebrità e Sonny finalmente ha realizzato i suoi sogni di gloria. A coronare il sodalizio artistico c'è la felicità sul piano personale. I due si sposano alla fine del 1964. Innamorati e famosi, il signore e la signora Bono sono perfetti per conquistare le platee di tutta l'America. Nel 1965 Sammy Davis Jr., presentatore del varietà televisivo Hulla Baloo, in onda sulla NBC, li introduce così. Io non avevo mai sentito parlare dei nostri prossimi ospiti. In effetti, poche persone hanno mai sentito parlare di Mr. e Mrs. Salvatore Bono. E adesso, all'improvviso, hanno 5 singoli in testa alle classifiche. Sembra proprio che i signori Bono abbiano intenzione di restare nei paraggi per molto, molto tempo. Certamente li conoscete meglio coi loro nomi di battesimo, Sonny e Cher. La crescente importanza della televisione in America e nel resto del mondo fa sì che proliferino gli show musicali, perfetti per lanciare la carriera di artisti di belle speranze, facendo presa sul fascino che i telespettatori nutrono nei confronti di tutto ciò che appare sul piccolo schermo. Tra gli anni 50 e 60 in America, la consacrazione definitiva di un artista passa necessariamente per un set televisivo, l'Ed Sullivan Show. Elvis Presley nel 1956 scioccò il pubblico con la sua celebre mossa pelvica in diretta televisiva. I Beatles il 9 febbraio del 1964 ebbero il loro primo colossale bagno di folla. Sembrerà incredibile, ma ora tocca proprio a Sonny e Cher calcare le assi di quel celebre palcoscenico mediatico. Negli ultimi 3 mesi hanno lasciato a bocca aperta tutti nello show business, con 5 singoli in cima alle classifiche più 2 album. E tutto questo è incredibile. Dunque, è un piacere presentarvi i miei connazionali, Sonny e Cher. Fate un applauso. Sonny e Cher sono in vetta alle classifiche con ben 5 brani nella top 20 americana. Un record è riuscito solo a Elvis e ai Beatles, anche loro guarda caso passati dall'Ed Sullivan Show. Sonny sta vivendo un momento insperato di notorietà e non si accontenta. La musica non gli basta. Certamente ha più doti manageriali che artistiche. Se il sodalizio con la moglie funziona a meraviglia nelle classifiche di vendita dei dischi, perché non dovrebbe funzionare anche sul grande schermo? È così che si avventura sulla strada del cinema. Nel 1967 esce Good Times, musical romantico dove i due interpretano se stessi, parodiando alcuni luoghi comuni dei generi cinematografici allora in voga a Hollywood. The name's Pizzicato, Johnny Pizzicato, Private Eye. A dispetto del titolo, Good Times è un mezzo flop e le vendite dei dischi dopo gli inizi esaltanti calano inesorabilmente. Sonny ha tentato il grande salto nel patinato mondo di Hollywood, ma è caduto, trascinando con sé il talento e le potenzialità della compagna. I due si ritrovano a cantare in squallidi locali di provincia pur di portare a casa qualche soldo. Per Cher il successo, quello vero, deve ancora attendere. L'amore la porta a condividere una dura realtà. Sonny e io suonavamo in certi locali. È stata dura. Era una cosa che detestavo, perché eravamo abituati a tenere enormi concerti. E poi all'improvviso ci siamo ritrovati a suonare in questi tristi casinò di provincia, dove devi tenere due spettacoli a sera e nel secondo ci sono solo ubriaconi che non hanno la minima idea di chi stiano ascoltando. A destini incrociati, un musicista incapace di trovare la propria strada da solo si aggrappa all'incredibile talento di una ragazzina. Nasce così il duo musicale capace di scalare le classifiche mondiali. Si chiamano Sonny e Cher. Ma l'amore porta anche a scelte sbagliate. La stella più brillante del duo viene offuscata dalla sete di successo dell'altro. È il momento di rimboccarsi le maniche e continuare a inseguire un sogno. A loro va bene così. Si bastano l'un l'altro. Destini incrociati. Alla fine degli anni 60 è facile avere dei sogni. Tutto appare possibile, come per una cantante piena di energia sognare di diventare una star insieme al suo compagno. A volte però si corre meglio da soli. È difficile fare certe scelte quando di mezzo c'è l'amore e l'idea che tutto debba accadere solo se si è in due. Sonny e Cher ce l'hanno quasi fatta. Hanno toccato per un attimo le vette delle classifiche discografiche di mezzo mondo. Adesso sono caduti nell'oblio. Nessuno dei due può immaginare che prima o poi il destino offrirà loro una seconda opportunità. C'è solo una cosa da fare: crederci fino in fondo. Nel 1969, il sodalizio di Sonny e Cher regala loro la soddisfazione più grande. Il 4 marzo nasce la loro bambina, Chastity. Sono felici, anche se insieme alle occasioni di lavoro mancano anche i soldi per andare avanti. Suonano e cantano nei locali e nei casinò di provincia. Cher detesta quelle esibizioni di fronte a platee così modeste, ma Sonny la convince a non mollare. Sonny continuava a dirmi: dammi solo un paio d'anni e ti prometto che torneremo in cima. Lui era davvero ottimista, era pieno di energie. Credeva in noi, credeva davvero in Sonny e Cher. Sonny e Cher restano in tour in giro per l'America per oltre 2 anni, durante i quali hanno modo di sperimentare e affinare lo stile delle loro esibizioni, aggiungendovi battute, giochi di parole, divertenti battibecchi, che vedono Sonny far la parte del debole marito schiacciato e irriso da una Cher tagliente e incontenibile. I divertenti siparietti della coppia, che all'inizio facevano da intervallo tra un'esibizione canora e l'altra, prendono sempre più piede e diventano addirittura più importanti delle canzoni. La gente iniziò a sentir parlare di quanto eravamo divertenti e all'improvviso non si riusciva più ad entrare in quegli stupidi, orrendi nightclub perché tutti venivano a sentirci. Una sera, tra l'ormai nutrito pubblico che assiste a una delle loro consuete esibizioni nei casinò, c'è il talent scout di un network televisivo. Impossibile per lui non notare il potenziale sprigionato da quella coppia che sembra fatta apposta per il piccolo schermo. Ancora una volta, dopo la consacrazione all'Ed Sullivan Show, è la televisione a decidere i destini di Sonny e Cher. Il potentissimo medium questa volta li ripesca dal presente, fatto di show itineranti, e li lancia in prima serata. Sonny aveva ragione. La fortuna prima o poi torna a girare per il verso giusto. Io e Sonny eravamo terrorizzati, ma non c'era tempo per esserlo. La CBS è motivata a non lasciarsi sfuggire quella che sembra essere un'occasione ghiotta. Decide immediatamente di affidare a Sonny e Cher uno show in prima serata che tappi un buco nella programmazione estiva. È così che nell'estate del 1971 debutta il Sonny e Cher Comedy Hour. From Television City in Hollywood. It's a Sonny and Cher Comedy Hour. Il Sonny e Cher Comedy Hour è un miscuglio irresistibile di canzoni e gag comiche. Sonny e Cher vestono i loro panni, ma non disdegnano i travestimenti e si ritrovano spesso a impersonare personaggi storici, supereroi, star dell'immaginario cinematografico e letterario. Esattamente quello che ci vuole per le tranquille famiglie americane in anni in cui la trasgressione è accettata solo se filtrata da uno schermo televisivo. Il programma ha un tale successo che la CBS decide di riconfermarlo per la stagione invernale. Allo show partecipano personalità tra le più variegate, da Ronald Reagan a Farrah Fawcett, dai Jackson 5 a Truman Capote. Tutti vogliono ridere e, perché no, farsi ridere al Sonny e Cher Comedy Hour. Il successo di Sonny e Cher sembra non avere tregua. I due vivono un momento davvero esaltante, sia sul piano professionale che umano. Infatti, carriera e vita privata diventano una cosa sola. La loro felicità diventa musica. Sometimes when I'm down and all alone, oh, just like a child without a home, the love you give me keeps me hanging on. Oh, honey, all I ever need is you. You're my first love, you're my last. You're my future, you're my past. And loving you is all I ask, honey. All I ever need is you. Winters come and they go, we watch the melting snow. Sure as summer follows spring, all the things you do give me a reason to build my world around you. Come and follow rainbows, I am told. Some men search for silver, some for gold. Con All I Ever Need Is You, incisa in quello stesso 1971, il duo ritorna anche al successo musicale. Fioccano le proposte contrattuali, Sonny e Cher accettano senza esitazioni di firmare un contratto con una casa discografica per la pubblicazione di due dischi. Cher intanto è cresciuta, non ha più paura del palcoscenico. Forse sta pensando a camminare un po' con le sue gambe. Decide quindi di intraprendere una carriera come cantante solista. Raggiunge la vetta della classifica americana nel 1971 con il brano Gypsies, Tramps and Thieves. Successo replicato due anni più tardi con il singolo Half Breed, letteralmente mezzo sangue, dedicato alle proprie origini meticce. Ora la sua diversità non è più un ostacolo, ma l'elemento principale del suo carattere. Cher in pubblico appare come una donna emancipata, capace di gestire da sé la sua carriera. Un'immagine confermata nel Sonny e Cher Comedy Hour. Ma la realtà è completamente e tragicamente diversa, come racconta Paulette Betts, una cara amica. La cosa strana dello show per me era che era così diverso dalla realtà. Sonny in realtà controllava tutto. Cher dipendeva completamente da lui e dunque per lei salire sul palco e fare la parte della dura, quella che aveva sempre la battuta pronta e passava tutto il tempo a prendersi gioco di Sonny mentre lui faceva il succube, era divertente, perché era il contrario di quel che avveniva davvero tra loro. In effetti, la vita reale non potrebbe essere più diversa da quella sul palcoscenico. Il rapporto tra Sonny e Cher nel corso dei 4 anni di messa in onda del Sonny e Cher Comedy Hour mette a nudo i limiti della coppia. E soprattutto Sonny, che non accetta l'evidente divario artistico che lo separa dalla compagna. Sonny iniziò a cambiare. Mise in difficoltà il nostro rapporto. Iniziò a fumare sigari, voleva parlare unicamente di affari. Iniziò a diventare una specie di magnate degli affari che non aveva più tempo per nessuna delle cose che trovava divertenti fino a qualche tempo prima. Nel maggio del 1974 il Sonny e Cher Comedy Hour viene cancellato in seguito al divorzio della coppia. Un colpo sconvolgente per il popolo americano, che deve affrontare la separazione a mezzo stampa di una delle coppie più amate e idolatrate degli ultimi anni. Forse ancora più difficile da digerire delle inquietanti rivelazioni sullo scandalo Watergate, rese pubbliche pochi giorni dopo, il 5 agosto. Quattro giorni più tardi, Nixon si dimetterà dalla sua carica di presidente. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. L'America è sconvolta. Il secondo matrimonio di Cher con il musicista Greg Allman, a soli tre giorni dalla formalizzazione del divorzio da Sonny, fa infuriare le platee. Cher viene percepita dalla gente come una crudele arrivista, intenzionata solo a portare avanti la propria carriera, senza guardare in faccia a nessuno, tantomeno a Sonny. Niente di più lontano dalla realtà. La gente pensava che io avessi lasciato Sonny perché sapevo di poter avere successo anche senza di lui, ma questo non corrisponde per niente alla verità. Perché io non avevo ancora fiducia in me stessa. È solo che non potevo continuare a vivere come una bambina. La volontà di Cher di emanciparsi da Sonny dopo anni di felice sodalizio la porta a una serie di scelte sbagliate. Il matrimonio con Allman finisce dopo appena due anni. La sua carriera televisiva è terminata e quella musicale è a un punto morto. Ancora un tremendo stop da superare. Nel frattempo, anche Sonny, forse a causa di quello stesso atteggiamento di ostentata sicurezza che lo aveva allontanato da Cher, si ritrova con in mano un pugno di mosche. Sonny e Cher erano l'uno la forza dell'altra. Adesso sono costretti a trovare un equilibrio da soli. E non è detto che la vita potrà offrire loro una nuova possibilità. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo ormai all'inizio degli anni Ottanta. Sonny e Cher hanno segnato due decenni di storia americana, resistendo a mille difficoltà e danzando tra le vette delle classifiche e il fumo dei casinò di provincia, tra la fama sul piccolo schermo e la rovina tempestosa del matrimonio più divertente e popolare d'America. Sono stati sinora convinti che il loro successo fosse strettamente legato alla loro unione. All'inizio degli anni Ottanta, però, le vite e le carriere di Sonny e Cher sono davanti a un bivio. Ognuno va per la sua strada e il futuro è ancora tutto da scrivere. Sonny Bono è stato certamente un famoso uomo di spettacolo, ma senza Cher non è più la stessa cosa. Prova a continuare la carriera di cantante con scarso successo. Se non ci era riuscito prima dell'avvento di Cher, figuriamoci ora che lei se n'è andata. Le prova tutte. Tenta di entrare nel mondo del cinema, ottiene qualche piccola parte in produzioni poco importanti, sia cinematografiche che televisive. Fa l'attentatore suicida nel seguito dell'aereo più pazzo del mondo e interpreta Mr. Bloom in 5 episodi della celebre serie Love Boat. I tentativi di Sonny come attore, tuttavia, restano isolati e non gli procurano nemmeno un decimo del successo che aveva ottenuto negli anni precedenti come cantante e come mattatore televisivo. Il mondo dello spettacolo si fa sempre più distante. Le prova tutte. Apre un ristorante a Palm Springs, in California. Il locale ha un discreto successo, ma Sonny ha dei guai con l'amministrazione locale che gli impedisce di dotare l'esercizio di un'insegna più grossa. Noie burocratiche che lo spingono addirittura a intervenire in prima persona, candidandosi alla carica di sindaco. E così Sonny diventa il primo ristoratore che ha successo in politica. Vince le elezioni nel 1988, ci prende gusto e tenta la fortuna al Congresso degli Stati Uniti, dove viene eletto nel 1994 come rappresentante del 44esimo distretto della California. Non male per uno che voleva solo mettere un'insegna più grande nel suo ristorante. Nel frattempo, anche Cher, dopo la serie di delusioni discografiche collezionate tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, si ricorda dei consigli di una mamma attrice che le aveva proposto, ancora bambina, di prendere lezioni di recitazione. Ci ho provato disperatamente per anni, ma loro continuavano a dirmi «No, no, no, non potrai mai fare l'attrice, ti sei già fatta un nome facendo altro». Inizialmente a Hollywood non ne vogliono sapere di Cher. Il suo nome è compromesso, in un certo senso. È stata una cantante, è stata una star della televisione. Non può sfondare anche come star del grande schermo. Robert Altman, però, sembra di diverso avviso quando le propone una parte in una sua commedia in scena a Broadway. Anche Cher si presenta all'audizione senza un briciolo di speranza, ma contro le aspettative di tutti ottiene la parte. E le fortune non capitano mai da sole. Tra il pubblico che assiste alla rappresentazione c'è il regista Mike Nichols, autore nel 1967 del film Sbanca Botteghini, Il laureato. La madre di Cher ricorda quale fu la reazione del regista di fronte alla brillante performance della figlia. Mike Nichols non le avrebbe nemmeno fatto fare un'audizione se lei si fosse presentata da lui a Hollywood. Ma quando la vide a Broadway, andò da lei in camerino dopo lo spettacolo e le disse: «Hai ragione, sai davvero recitare. Vorrei che facessi un film con Meryl Streep». E lei ovviamente disse di sì, senza nemmeno sapere di cosa si trattasse. Silkwood, diretto da Mike Nichols, segna lo straordinario debutto di Cher in veste di attrice drammatica. La performance è così apprezzata che le vale una nomination agli Oscar e le fa vincere un Golden Globe come migliore attrice non protagonista. Ma il vero grande successo sul grande schermo deve ancora arrivare. Nonostante le continue conferme del suo multiforme talento, Cher non ha ancora trovato la consacrazione che desidera, la consacrazione definitiva. Cher con Silkwood si è guadagnata la stima degli addetti ai lavori e il diritto di riempire col suo volto e il suo nome i grandi schermi di tutto il mondo. Lea Rosen, critico cinematografico di People Magazine, si esprime così sull'argomento. Quando Madonna appare sullo schermo, non c'è niente di interessante, almeno non sul grande schermo. Sullo schermo della TV sì, ma sul grande schermo non succede niente quando Madonna fa capolino. Quando si tratta di Cher, beh, fai fatica a staccarle gli occhi di dosso. È così che si riconosce una vera star del cinema. La consacrazione cinematografica per Cher arriva nel 1987, con Stregata dalla Luna, accanto a Nicolas Cage. Cher è una vedova di Brooklyn che si innamora di un panettiere di origini italiane, le stesse origini di Sonny, l'uomo che le ha permesso di intraprendere la sua inarrestabile scalata verso il successo. Mi hanno insegnato che una ragazza deve sposarsi giovane. E io ho cercato l'amore. Mi sono sposata che avevo 28 anni. Ci siamo conosciuti, l'ho amato e l'ho sposato. Lui voleva subito un figlio, ma io gli ho detto no, meglio aspettare. Un bel giorno un camion me lo ammazza. Morale che mi resta, niente marito, niente bambino, niente. Per questa interpretazione, Cher ottiene la seconda nomination all'Oscar. Stavolta il suo turno è arrivato. Winner is Cher in Moonshot. Cher ha finalmente dimostrato di essere un'artista eclettica, versatile e soprattutto testarda al punto giusto. Non ha mai ascoltato le critiche di chi la voleva necessariamente sconfitta ogni volta che la sua carriera subiva una battuta d'arresto. Alla fine voleva dire che mi avevano accettata, almeno in qualche aspetto del mio lavoro, perché in qualche modo non sono mai stata accettata dai cantanti come cantante, né dagli attori come attrice. La personalità di Cher è più potente che mai. Ha ritrovato il successo davanti alla cinepresa, ma è un'artista completa. Perché non riprovare con la musica? È così che nel 1989 pubblica il singolo If I Could Turn Back Time, che balza immediatamente in testa alle classifiche, forse anche grazie al traino del video musicale, in cui Cher balla e canta in abiti decisamente succinti. È scandalo. MTV proibisce la programmazione del video prima delle 9 di sera. Ma si sa, a Cher non è mai importato di fare contenti i ben pensanti. Lei va per la sua strada e finora ha sempre avuto ragione. If I could turn back time. All'inizio degli anni 90 Cher è di nuovo sulla breccia. Si destreggia tra il cinema e la musica con estrema agilità. Sonny intanto continua con successo la sua carriera da politico. Ha un'altra moglie e un'altra famiglia, ma lui e Cher sono rimasti in ottimi rapporti. Dopo tanti anni e tante vicende passate insieme, i due non possono non nutrire un grande affetto l'uno per l'altra. La notizia della morte di Sonny, avvenuta nel 1998 in seguito a un incidente sulle piste da sci, sconvolge terribilmente Cher. Ero in Inghilterra. Ero arrivata giusto la sera prima, intorno a mezzanotte. Ed erano le 8 del mattino quando Chastity mi chiamò e me lo disse. E... è stato, non so, non mi era mai capitato che qualcuno di davvero vicino a me morisse, quindi tutto diventa diverso. È una specie di esperienza extracorporea. Dal momento in cui l'ho saputo e fino a molto tempo dopo, è stato tutto diverso, tutto strano. Da lì a un anno, Cher balza nuovamente in vetta alle classifiche col brano Dance Believe, caratterizzato da ritmi frenetici, ma con un significato decisamente romantico. C'è chi dice che il verso Do you believe in life after love, credi ancora nella vita dopo l'amore, sia dedicato proprio a Sonny, compagno di avventure di una vita intera. Senza di lui, senza il loro amore degli inizi, non sarebbe mai diventata una celebrità amata in tutto il mondo. È stato lui, in qualche modo, a permetterle di credere in se stessa. È una lezione che certamente Cher ha imparato. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.